Consiglio sul meccanismo di salvataggio delle banche. Forse un primo ritrovamento per le parti dell'aereo scomparso. Le immagini satellitari rivelano due oggetti al largo delle coste australiane. Intanto continuano le analisi dell'FBI sul simulatore di volo usato dal pilota. Ucraina ha alzato lo stato di allerta delle truppe di Kiev, mentre Merkel annuncia sarà allungata la lista delle sanzioni europee e le consultazioni del G8 sono sospese. Sulla vicenda della casa del Presidente del Consiglio, pagata dall'imprenditore Marco Carrai, la Procura di Firenze apre un fascicolo. Il Movimento 5 Stelle al Premier spieghi. Arresti a Prato per l'incendio nel quale morirono gli operai cinesi. Ci sono anche due italiani, proprietari del capannone che andò in fiamme. Maxi sequestro di droga, 2 tonnellate, smantellato un traffico gestito dall'Andrangheta, 24 gli arresti in Italia, coinvolte le forze dell'ordine di 9 paesi. Ci faremo raccontare l'operazione tra poco dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Gratteri. E una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti. Apriamo però con una notizia appena battuta dalle agenzie e riguarda un nuovo crollo a Pompei, una piccola porzione di muro in una domus che si trova appunto negli scavi archeologici. A segnalare il cedimento sono stati i custodi. Vedremo se riusciremo ad approfondire nel corso della trasmissione con magari qualche responsabile appunto degli scavi. Tema di oggi dunque L'Europa, il Consiglio europeo che si apre con la presenza naturalmente del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che in mattinata ha incontrato gli esponenti di regioni e comuni e ha anche chiarito loro che cosa andrà a chiedere in questo Consiglio europeo e all'Europa. Iniziamo dunque da qua e ne parliamo con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Un incontro, quello del Premier, con gli enti locali dai diversi fronti, dalle riforme alle misure economiche. Sul primo tema Renzi è stato esplicito, ha chiesto alle regioni e ai comuni un contributo affinché siano protagonisti nel processo di stesura del testo di riforma del Senato e del titolo quinto della Costituzione, testo che Palazzo Chigi punta a chiudere entro la prossima settimana. Quanto al fronte economico, il Presidente del Consiglio ha promesso che in sede di Consiglio europeo chiederà che i fondi strutturali vengano esclusi dai vincoli posti dal patto di stabilità. Su questo sentiamo il presidente delle regioni Errani. Bisogna che i fondi strutturali abbiano la possibilità di trovare una piena liberalizzazione dal patto di stabilità, diversamente non riusciremo a spendere risorse. Abbiamo posto il problema del rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga, che rappresenta una vera e propria emergenza. Bene il processo delle riforme anche dai comuni. Da tempo siamo sostenitori di una Camera delle Autonomie, anche se ci sono una serie di aspetti che secondo noi possono essere migliorati, dice il presidente dell'ANCI Fassino. Ascoltiamo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Abbiamo detto chiaramente che noi non ci consideriamo interlocutori del governo, ma nell'azione di riforma e di innovazione ci consideriamo alleati e partner del governo e vogliamo essere coinvolti fino in fondo, contribuendo con le nostre proposte e con la nostra esperienza quotidiana a cambiare questo paese. Infine Simone, il governatore della Lombardia Maroni, che dice: ho chiesto alcune risposte sulle questioni che riguardano la mia regione, come sull'Expo, ci sono delle inadempienze del governo, cose che doveva fare mesi fa e non ha fatto. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, e dunque anche con queste premesse che si apre il Consiglio europeo, che si apre questo pomeriggio, c'è il nostro inviato Sergio Nava. Buongiorno Sergio. Buongiorno, premesse buone anche su un altro fronte. Infatti Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto questa mattina, al termine di una lunga maratona negoziale, l'intesa sull'ultimo pilastro dell'Unione bancaria, il meccanismo di risoluzione e il fondo salvabanche. L'ultima plenaria di aprile del Parlamento europeo potrà votare il via libera definitivo. Due le novità fondamentali: in primis le risorse nazionali per la risoluzione delle banche in crisi saranno mutualizzate in 8 anni e non più in 10 anni. La seconda novità riguarda l'accelerazione del trasferimento delle risorse dei comparti nazionali al fondo europeo. Nei primi 2 anni sarà trasferito il 60% delle risorse versate a regime. Dopo 8 anni il fondo unico avrà risorse così per 55 miliardi e sarà anche stabilita una linea di credito prima che il meccanismo di risoluzione entri in vigore. Allora, sul fronte del vertice invece è atteso a minuti l'arrivo del Premier Renzi, che si recherà prima al pre-summit del Partito Socialista Europeo, poi vedrà il Presidente della Commissione Europea, José Barroso. In agenda al summit dominerà la questione ucraina. Oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel ha minacciato di estendere il raggio delle sanzioni decise lunedì dai ministri degli esteri europei con un ampliamento della lista dei cittadini russi o ucraini colpiti dalla sospensione dei visti insieme a un ulteriore congelamento degli asset finanziari. Non sembrano per il momento imminenti vere e proprie sanzioni economiche contro la Russia. Tra gli altri temi in agenda, il semestre europeo, la politica industriale comunitaria e il pacchetto clima-energia. Infine, importanti novità anche sul fronte della procedura europea sui pagamenti alle imprese. È partita infatti una seconda lettera da Bruxelles all'Italia, questa volta per contestare la trasposizione della direttiva stessa, che lascerebbe margini discrezionali enormi alle pubbliche amministrazioni italiane. Di questo Bruxelles non è contenta, Europa e Italia quindi davvero ai ferri corti sul pagamento dei debiti alle imprese, come spiega il vicepresidente della Commissione Antonio Tajani in questa intervista a Radio 24. Sentiamo. Noi abbiamo avviato la procedura per aprire l'infrazione nei confronti dell'Italia per mancato rispetto della direttiva comunitaria. Abbiamo avuto una prima risposta dell'Italia e da questa risposta purtroppo abbiamo dovuto valutare una anche forse erronea trasposizione della direttiva comunitaria. Cioè l'Italia ha sbagliato a trasporre la direttiva sui pagamenti alle imprese? La risposta dell'Italia alla contestazione sull'applicazione della direttiva ci fa capire che l'interpretazione che viene data dall'Italia della propria trasposizione non è corretta. Dove si è sbagliato? Nella risposta si dice non c'è nessuna violazione perché essendoci la mora prevista, il pagamento di una mora all'8% più il tasso di interesse, questo esclude la rigidità del termine. La norma è fatta per far pagare i debiti, non per rinviare e non per caricare sui cittadini l'inefficienza dell'amministrazione pubblica che non paga. È come se avessero detto c'è il limite di 130 all'ora sull'autostrada, noi possiamo andare a 300 all'ora perché poi paghiamo la multa. Non è così. E quindi, se capisco bene, l'Italia dice possiamo pagare più tardi perché ci avete messo una mora. Questa è un'interpretazione, direi, bislacca. Però è quella italiana. È quella che traspare dalla lettera che abbiamo ricevuto. È un'interpretazione che non sta né in cielo né in terra. Ma quando l'avete ricevuta questa lettera? Il 10 di marzo, ecco perché noi abbiamo aperto un'altra procedura con l'invio di uno U-Pilot proprio su questo. Cioè noi contestiamo all'Italia anche a questo punto la trasposizione della normativa. Restiamo in qualche modo in Europa, anche se andiamo nel Parlamento italiano, perché sono state approvate le famose quote rosa, la parità di genere per le liste per le europee, ma non varrà da questa tornata. Elisabetta Fiorito, ciao. Sì, ma poi c'è una norma transitoria, adesso poi lo spieghiamo bene, Simone. Sia la parità di genere nella riforma della legge elettorale alle elezioni europee, il Senato dà il via libera con 157 voti, 34 contrari e 23 astenuti. Il disegno di legge per la candidatura dei componenti italiani nel Parlamento europeo, il provvedimento passa ora all'esame della Camera e introduce la parità di genere dal 2019. Nell'ordine di lista i primi due candidati dovranno essere di sesso diverso. Hanno votato a favore del provvedimento PD, Nuovo Centrodestra, Forza Italia, GAL, Scelta Civica e Lega Nord. SEL non ha partecipato al voto, contrario il Movimento 5 Stelle, ma c'è anche una norma transitoria per il prossimo 25 maggio 2014 che prevede solo la possibilità di esprimere due preferenze per persone dello stesso genere, pena l'annullamento della terza se non si rispetta l'alternanza. Per Anna Finocchiaro comunque questo provvedimento è il trampolino di modifiche all'Italicum, che ricordiamo adesso è all'esame del Senato. E allora sentiamo quindi già dal PD, dalle donne del PD, la volontà di cambiare la nuova legge elettorale che sarà appunto in seconda lettura al Senato. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Veniamo a vicende che riguardano il Presidente del Consiglio, perché oggi la Procura di Firenze ha deciso di aprire un fascicolo sulla vicenda della casa il cui affitto era pagata da un imprenditore vicino a Renzi. Il governo di 34 mesi di affitto. Non si placano le polemiche e ora la procura fiorentina apre anche un fascicolo dopo un esposto per fare chiarezza intorno a un appartamento in cui per quasi tre anni ha vissuto l'ex sindaco Matteo Renzi. Una casa al quinto piano di via degli Alfani 8 vicino a Palazzo Vecchio, il cui affitto sarebbe stato pagato dall'imprenditore Marco Carrai, consigliere e miglior amico di Renzi. Il fascicolo esplorativo, non ci sono ipotesi di reato né indagati. L'obiettivo è verificare i rapporti tra l'ex sindaco, ora premier, e Carrai, Rai, presidente di ADF, società che gestisce l'aeroporto del capoluogo toscano e imprenditore che con una delle sue aziende si è aggiudicato dal comune l'organizzazione di un servizio per visitare Palazzo Vecchio con la guida di un tablet. La polemica è lievitata prima sulle pagine dei giornali a rivelare il caso Libero ed è continuata anche dopo la pubblicazione della copia del contratto di affitto che lo stesso Carrai ha inviato. Alle polemiche si aggiunge anche quella per la fidanzata e futura moglie di Carrai, Francesca Campana Comparini, che ha ricevuto un incarico di curare la mostra su Pollock a Palazzo Vecchio. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E siamo all'estero, poi ci torneremo più avanti sulle vicende dell'Ucraina e sentiremo Gianandrea Gagliani, direttore di Analisi Difesa ed editorialista del Sole 24 Ore, per capire anche se siamo a rischio di un'escalation militare. Intanto abbiamo sentito il punto europeo con le parole di Angela Merkel che minaccia un'estensione delle sanzioni. Sentiamo il punto dal terreno, per così dire. Il governo di Kiev manda il vice premier e il ministro della difesa in Crimea. L'intenzione è quella di prevenire un conflitto militare nell'area. La notizia arriva in una giornata di altissima tensione, iniziata con centinaia di manifestanti filorussi che hanno fatto irruzione nella sede dello Stato Maggiore della Marina Militare Ucraina a Sebastopoli. Dopo una trattativa durata ore, la notizia che il comandante della Marina Militare sarebbe stato portato via dalla sede dello Stato Maggiore di Sebastopoli da agenti dei servizi segreti russi. Sulla linea di confine intanto arrivano oggi oltre 5.000 artiglieri delle truppe aviotrasportate russe che prenderanno parte alle esercitazioni di tiro. Tra le altre aree c'è il poligono vicino a Novorossiysk che confina con la Crimea. Le manovre dureranno da 45 giorni a 2 mesi. Nel batti e ribatti delle agenzie arriva anche una notizia, ma non conosciamo la fonte, secondo la quale domani il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon sarebbe atteso a Mosca dove potrebbe incontrare Putin. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli aggiornamenti sulla vicenda dell'aereo scomparso. La pista è credibile. Le autorità della Malesia commentano le foto dei satelliti che hanno intercettato due oggetti alla deriva nell'Oceano Indiano. A 2.500 chilometri da Perth, città australiana che affaccia sulla costa sud-ovest. Il ministro dei trasporti, Hishamuddin Hussein, ha confermato che sono in corso delle verifiche nella zona individuata. L'Australia ha inviato sull'area 4 aerei da ricognizione. Anche Nuova Zelanda e Stati Uniti hanno inviato aerei e navi. Un primo velivolo da pattugliamento marittimo statunitense però è rientrato senza aver avvistato nulla. È stato il premier australiano Tony Abbott a raccontare in Parlamento delle immagini satellitari che mostrano due elementi in mare aperto, elementi che potrebbero essere parti del velivolo della Malaysian Airlines scomparso l'8 marzo scorso, inghiottito dall'acqua o atterrato chissà dove, riuscendo a sfuggire a qualsiasi controllo. Il responsabile dell'autorità per la sicurezza marittima, John Young, afferma che uno dei due oggetti è lungo circa 24 metri, l'altro è più piccolo, circa 5. Le immagini non sono molto nitide. È una pista, probabilmente la migliore che abbiamo al momento, conclude Young. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca italiana con gli arresti a Prato per l'incendio nella fabbrica nella quale sono morte 7 persone. Ubaldo Cianciulli, buongiorno. Sì, buongiorno. L'inchiesta sull'incendio del capannone in via Toscana della ditta di Pronto Moda, Teresa Moda, ha messo un punto fermo. Sono state arrestate 5 persone ritenute dalla Procura di Prato le responsabili dell'incendio e della morte di 7 cinesi. Si tratta di 3 cinesi, 2 donne e un uomo, gestori della ditta, tutti residenti a Prato e ora in carcere, e di 2 fiorentini agli arresti domiciliari, soci al comandatari della MGF, la società immobiliare proprietaria del capannone. Le novità dell'inchiesta condotta dalla Procura, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato sono sostanzialmente due, innanzitutto perché i proprietari di questi capannoni hanno dichiarato gli inquirenti non possono soltanto pensare ad affittare massimizzando i profitti e chiudendo gli occhi. Inoltre, per recuperare gli illeciti profitti è stato applicato un sequestro preventivo su un capannone di un valore stimato pari appunto agli illeciti e profitti conseguiti sia dagli affitti sia dalle mancate misure necessarie per la prevenzione degli incendi. Il capannone che ospitava il Toscana Moda non era mai stato controllato nei numerosi ma comunque insufficienti controlli a campione che Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza fanno normalmente, e il capannone non aveva neanche le misure minime antincendio, ad esempio gli estintori. E per il momento da Prato è tutto, linea allo studio. Grazie Ubaldo Cianciulli, e rimaniamo in parte in tema perché oggi la nostra nuova tappa di Passione Sud, il viaggio di Radio 24 nel Mezzogiorno che vuole rialzare la testa, ci parla anche di questo. Restiamo a Bari. I numeri fanno impressione. In Puglia 2.360 aziende tra manifattura, mobili e tessile sono morte dal 2009 al 2012, uccise dalla crisi e da una competizione non sempre alla pari. Dopo un percorso tra stradine e campagne, non proprio vialoni da area industriale, si arriva a Sant'Eramo in Colle, alla Natuzzi, una delle poche sopravvissute di un distretto del mobile che un tempo contava 14.000 addetti. Da qui escono divani mandati in mezzo mondo, ma sempre più copiati, denuncia il padrone di casa, dal distretto parallelo di cinesi spuntato tra Altamura e Matera. Una concorrenza aggravata dalla presenza sempre più numerosa di cassintegrati italiani che, per arrotondare, mettono la loro esperienza al servizio dei cinesi, come in una scena di Gomorra. Ed è per questo che Pasquale Natuzzi, anche con una lettera al Quirinale, sollecita interventi politici. Già fare imprese in Italia non è una cosa semplice. Poi noi dobbiamo combattere con i cinesi della Cina e poi con i cinesi che producono in Italia. Lavorano cittadini cinesi che vivono, mangiano, dormono con i loro figli 24 ore al giorno in questi scantinati. E poi dipendenti di imprese italiane che sono in cassa integrazione vanno anche lì a lavorare, a fare formazione. Loro, che erano rientrati dalla Romania, ora con un business plan che punta al ritorno all'utile dal 2015, provano ad archiviare mesi difficili passati attraverso un delicato accordo sindacale che prevede 1.506 esuberi. Uno dei vari tavoli, come quello Bridgestone, aperti in questa regione, dove però diversi grandi gruppi stranieri sono rimasti. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. Saluto adesso la collega del Sole 24 Ore, Giulia Crivelli. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Che tra poco ci racconterà una bella storia che arriva da una casa di moda, Bulgari, e che riguarda il nostro patrimonio artistico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Si apre questo pomeriggio il Consiglio europeo. Renzi si prepara a chiedere che i fondi strutturali escano dal calcolo del patto di stabilità. Accordo intanto tra Parlamento e Consiglio sul meccanismo di salvataggio delle banche. C'è stato forse un primo ritrovamento delle parti dell'aereo scomparso. Le immagini satellitari hanno rivelato due oggetti al largo delle coste australiane. In Ucraina è stato alzato lo stato di allerta delle truppe di Kiev, mentre Merkel annuncia sarà allungata la lista delle sanzioni europee e le consultazioni del G8 sono sospese. Un nuovo crollo a Pompei, si tratta di una porzione di muro di una domus. E abbiamo lasciato in sospeso la nostra Giulia Crivelli del Sole 24 Ore. Eccoci Giulia, allora di che iniziativa si tratta? Che cosa ha deciso di fare Bulgari? Ecco, tu hai nominato Pompei, speriamo che magari qualcuno pensi presto anche a Pompei. Intanto Bulgari ha pensato a Trinità dei Monti, ha annunciato che donerà 1,5 milioni di euro per il restauro conservativo di questa incredibile scalinata su Piazza di Spagna. I lavori partiranno subito, l'annuncio è stato fatto in Campidoglio con un sindaco marino ovviamente raggiante, perché sicuramente di soldi per fare queste cose men che meno in questo momento non ne ha, e dureranno 2 anni. E questo, quello che è stato definito questo gioiello del che appartiene al mondo e non tanto ai romani, sarà appunto restituito nella sua bellezza. E poi stasera grande festa, ci sarà Carla Bruni che indosserà un collier da 7 milioni di euro, ci è stato detto, per festeggiare la riapertura del negozio di Via Condotti e questa grande festa per i 130 anni di Bulgari, perché l'amministratore delegato di questa maison di gioielli che quest'anno appunto compie 130 anni ha detto: abbiamo fatto questo regalo a Roma e ci siamo fatti questo regalo per i 130 anni, per noi è un onore finanziare questo tutto sommato benissimo, piccolo restauro. Noi speriamo naturalmente che i soldi vengano utilizzati effettivamente per quello. Grazie a Giulia Crivelli che ha seguito questa conferenza stampa, e noi adesso vogliamo parlare di politica. Francesco Duva del Movimento 5 Stelle, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, la chiamiamo per fare il punto su quelle che potremmo definire le questioni morali che stanno investendo un vostro avversario politico, ossia il Partito Democratico. Partirei da questo, dato che lei è di Messina e come dire, Francantonio Genovese probabilmente lo conosce bene, se non personalmente, sicuramente di fama. Vorrei partire da questa vicenda. La vicenda è di un deputato del Partito Democratico per il quale è stato chiesto l'arresto. In realtà il PD ha detto: noi daremo il via libera all'arresto. Sì, sì, intanto c'è da dire che no, non lo conosco personalmente, lo conosco molto bene di fama perché tutta Messina lo conosce, diciamo che la vita politica e non solo della città è sempre dipesa da lui, almeno da quando ne ho memoria io, che comunque sì, sono giovane. Beh, quanti anni ha, Duva? Io ne ho 26, devo dire che il mio futuro, il allora futuro capisco. Mio e della città, dei miei coetanei, dipende molto anche da queste figure. Da queste vicende. Che ci dice su questa vicenda? Devo dire, ricordiamo intanto per cosa è stato chiesto l'arresto. Si parla di associazione a delinquere finalizzata a riciclaggio, peculato e truffa, quindi stiamo parlando di roba da poco. C'è da dire in particolare che ovviamente noi abbiamo già chiesto che lui rinunci alla sua immunità di fatto, perché anche se il PD ha dato l'autorizzazione, darà l'autorizzazione, ciò non toglie che in questi anni l'ha sempre protetto. Parliamo di una persona che è stata anche segretaria regionale del Partito Democratico, e anche se queste cose sono uscite adesso allo scoperto, in linea di massima sono cose che si sono sempre sapute a Messina, non è un mistero per nessuno. Quindi ovviamente adesso che mi si venga a dire che il Partito Democratico procederemo e via così, resta il fatto che le 20.000 preferenze per le primarie Renzi le ha avute tranquillamente, perché poi alla fine Genovese ha appoggiato Renzi, quindi finché è stato utile bene, adesso lo vogliono scaricare, quindi per carità, meno male che voteranno per procedere, però non nascondiamoci dietro un dito, ecco. Ecco, questo per quanto riguarda la vicenda di Francantonio Genovese. C'è un'altra vicenda che sta in realtà passando un po' sotto traccia, che riguarda invece una figura di governo, ed è il sottosegretario ai beni culturali Barracciu, per la quale sarebbero spuntati, queste sono naturalmente indiscrezioni, lei è stata chiamata a spiegare, eccetera, eccetera, altri rimborsi da consigliere regionale per 45.000 euro, se non sbaglio. Chiedete le dimissioni? Sì, dunque c'è da dire che noi già abbiamo chiesto al ministro Boschi, prima che spuntassero gli stati 45.000 euro, noi già avevamo chiesto, il ministro Boschi ci rispose che finché non c'è una condanna non sono interessati, quindi lo farebbero soltanto per opportunità politiche, ci disse questo in aula il ministro Boschi. Poi chiaramente qui sono cose secondo me abbastanza gravi, perché ci sono anche contraddizioni nella versione difensiva, perché viene indicato un viaggio in un'isola in una data in cui lei invece risultava all'estero, quindi io non faccio il giudice, né lo voglio fare, però è chiaro che qui c'è qualcosa che non quadra. Noi continueremo a chiedere dimissioni di queste persone che evidentemente non ci sembra giusto che stiano al governo, anche perché questa persona in particolare non si poteva candidare per il governo regionale della Sardegna, perché è indagata, e poi invece si può candidare, può essere sottosegretario del governo. Mi sembra una cosa folle. Mi sembrerebbe folle se non fosse che in questo governo ci sono un sacco di conflitti di interessi, ci sono un sacco di cose che non vanno bene, quindi è quasi la normalità. Cioè, tolta la Barracciu se ne dovrebbero togliere anche qualche altro. Per esempio? Beh, non lo so, posso pensare, dico, ce ne sono un paio. Mi dica. Sì, non lo so, vabbè, in generale parlo del conflitto di interessi, pensa appunto, non lo so, Federica Guidi che è con lo sviluppo economico, dico, anche se non si parla qui di indagini o altro, comunque sicuramente è un governo dei conflitti di interessi. Giuliano Poletti, ministro del lavoro, alla fine lì si parla, ci sono tutte le cooperative, diciamo che comunque questo qui per noi è un governo del conflitto di interessi, molto più di quanto lo fosse il governo Letta. E questa è la vostra visione. Grazie Francesco Duva del Movimento 5 Stelle, buona giornata. Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, benvenuto ai nostri microfoni. Grazie. Allora, la chiamiamo perché oggi avete fatto un'operazione di grandi dimensioni, perché c'è stato un maxi sequestro di droga, 2 tonnellate, è stato smantellato un traffico gestito dall''Ndrangheta e che tra l'altro in un'operazione tra l'altro ha coinvolto le forze di polizia di 9 paesi, Gratteri? Sì, questa è la particolarità di questa indagine, cioè mai in Italia era stata fatta un'indagine con rogatorie, con collaborazioni giudiziarie e di 9 paesi contemporaneamente. Questa quindi è ritenuta dalla Direzione Centrale del Servizio Antidroga la più grande indagine mai fatta che ha interessato tutti questi paesi. È importante questa indagine anche perché si continua a dimostrare come promotori e finanziatori di queste indagini, di questi traffici di droga, sia l'Ndrangheta. Calcoli che solo di droga abbiamo di danno, per il sequestro arriviamo a 400 milioni di euro per la droga sequestrata, questo è il valore. Poi ovviamente abbiamo sequestrato anche 6 milioni di euro in 5 conti all'estero e contanti 800 mila euro. Gratteri, e tutto questo traffico veniva gestito da un piccolo paesino della Calabria sostanzialmente? Meno di 1000 abitanti, nativi di Careri. Un paese di 1000 abitanti a quale si gestiva questo maxi traffico di droga. Quali sono i paesi principalmente coinvolti? Non le chiedo l'elenco di tutti, naturalmente. Principalmente Colombia, Brasile, Uruguay, Bolivia, Argentina, Belgio, Germania, Olanda, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Montenegro. Ah, perfetto, quindi alla fine l'abbiamo fatto tutto l'elenco. E gli arresti sono stati solamente in Italia, no? No, sono stati fatti in questi paesi, in particolare in Brasile, e la nuova frontiera per lo stoccaggio della droga in Sud America, visti i contrasti che stanno facendo, visto il lavoro che sta facendo soprattutto la polizia colombiana, dove lì c'è la DEA americana molto presente, che sta facendo da argine, e quindi oggi i grandi broker preferiscono far partire la droga dai paesi più a sud della Colombia. Grazie a Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, buona giornata e buon grazie lavoro, anche quello compiuto naturalmente. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Iniziamo dagli aggiornamenti sull'Ucraina, perché il capo della missione presso le Nazioni Unite dell'Ucraina ha detto alla stampa di avere indicazioni che la Russia sia pronta a lanciare un intervento su larga scala a est e sud del paese. Le altre notizie: si apre questo pomeriggio il Consiglio europeo e Renzi si prepara a chiedere che i fondi strutturali escano dal calcolo del patto di stabilità. C'è stato forse un primo ritrovamento per le parti dell'aereo scomparso, immagini satellitari rivelano due oggetti al largo delle coste australiane. Un nuovo crollo a Pompei, si tratta di una porzione di muro di una domus. E veniamo alla borsa. Borse in diretta. Giornata negativa, meno 0,39% sul FTSE MIB, altrettanto sul FTSE All Share, va peggio il resto d'Europa in realtà. Francoforte meno 0,83, Parigi meno 0,82, Londra meno 1,02%. Isabella Tasso, Radio Cori, il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai scendono i mercati oggi? Sì, Piazza Affari chiude la mattinata in calo come il resto d'Europa dopo che ieri la Federal Reserve americana ha indicato che potrebbe iniziare ad alzare i tassi di interesse molto prima del previsto, cioè a inizio 2015. Gli indici europei comunque sono volatili anche perché domani ricorrono scadenze tecniche, cioè scadenze di future su indici e titoli, mentre nel frattempo rimane sullo sfondo la situazione in Ucraina ed è sta preoccupazione. Naturalmente, tra i titoli negativi segnaliamo A2A in calo del 2,3%, la Popolare di Milano del 2,12%, Snam dell'1,5%, Atlantia dell'1,34%, TOTS dell'1,33%, Mediolanum dell'1,21%. In positivo invece Finmeccanica con più 2,48% in questo momento. Sì, Finmeccanica è positiva, questo all'indomani dell'annuncio del ritorno in utile nel 2013, i titoli sono spinti anche dalle ipotesi di cessione del settore trasporti dopo che il governo ha approvato ieri sera il piano di dismissioni del gruppo guidato da Alessandro Pansa e in luce anche la controllata Ansaldo STS. Sì, che guadagna lo 0,79%, Mediobanca più 1,41%, Ferragamo più 0,48%, Prismian più 0,45%, questo è il quadro dei migliori e dei peggiori sul FTSE MIB. Grazie anche per oggi ad Isabella Tasso, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Antonio Irlando, responsabile osservatorio patrimonio culturale con base a Pompei, buongiorno. Buongiorno. Un altro crollo. Sì, è una notizia, diciamo, sembra quasi fatta confezionato per il suo programma, ecco, voler essere un tantino così. Cioè, dice perché è arrivata alle 13:01, perché dice che è arrivata alle 13:01, dice, lo dice per questo. Infatti. Questo potrebbe già introdurci sul tema, immagino, no? Nel senso del fatto che a Pompei i crolli quelli che vengono segnalati, i crolli che vengono rilevati, sono purtroppo negli ultimi tempi tanti, ma sono comunque pochi rispetto a quelli che poi effettivamente avvengono quotidianamente. Lei ha una stima su questo? Quanti crolli avvengono ogni giorno, secondo lei, tra quelli che non riusciamo a rilevare? Perché noi vediamo. Noi abbiamo fatto una stima, una stima molto molto prudente, che praticamente sostanzialmente è questa, cioè per ogni crollo che è reso noto, ve ne sono almeno 9 di cui non si ha notizia. Perché 9? Pompei è suddivisa in 9 regioni e siccome 9 regioni hanno criticità che in alcune di queste regioni arrivano all'80%, cioè significa che l'80% di quelle aree, sempre con stima prudente, è a rischio crollo o quantomeno rischio distruzione degli elementi che compongono appunto il tessuto urbano e decorativo di Pompei. Ok, come un po' come insomma le denunce di alcuni reati, no? Che sono solamente le denunce e però non sappiamo effettivamente quanti reati di quel tipo avvengano. È il caso dell'estorsione, è il caso dell'usura, no? Tanto per fare un esempio. Mi dica una cosa, invece, per quanto riguarda il furto, ieri sono stati presi dei provvedimenti dal governo, rafforzamento della sicurezza, anche con vigilantes privati, 30 persone in più tra i custodi, accelerazione delle gare per la videosorveglianza e nuova recinzione. Questo va bene, mi sembra, no? Beh, Pompei, dove da tantissimo tempo non si fa nulla di utile ed importante per gli scavi, va certamente bene, è comunque una buona notizia, anche se le buone notizie sono, ecco, l'attualità ce lo spiega, sono purtroppo tardive rispetto a quella che poi è la vera emergenza di una città che è al collasso. Vanno bene, però qualche riflessione la si può anche fare. Intanto, ecco, che cosa significa? Convenzione con Ales, che è una società in house del Ministero, che dovrebbe rendere disponibili 30 unità. Poi bisognerà fare delle gare d'appalto per individuare una società di vigilanza che integri il servizio attualmente fatto dai custodi dipendenti dello Stato. E quindi i tempi, dice tutto lei, questo, non sono... Ecco, bravo. E io lì proprio con la premessa, era proprio questo che volevo dirle. Cioè, lei dice l'importante è che i tempi siano celeri. I tempi siano celeri, però diciamo se si voleva fare qualcosa di subito, cioè che da domani mattina desse la possibilità a Pompei di disporre di più unità, si poteva fare altro. Per esempio, ridistribuire la presenza di custodi che sono attualmente in servizio nell'ambito degli altri siti archeologici dell'area vesuviana, dove oggettivamente c'è un esubero per tutta una serie di aree che sono Oponti, Stabia, dove almeno ci sono un 10 unità in più che oggettivamente, per ammissione degli stessi sindacati dei lavoratori, sono in esubero rispetto alle esigenze di quei posti dove i visitatori sono talmente pochi rispetto a quelli che quotidianamente vanno a Pompei. Quindi grazie. Si poteva e si può ancora fare che da domani mattina 20 unità in più vanno a Pompei. Irlando, la devo interrompere perché siamo stretti con gli spazi. La ringrazio, le auguro buona giornata. Abbiamo parlato di cultura con Pompei, ne parliamo di cultura in termini di lettura. Si legge sempre meno, nuovi dati. L'indagine Nielsen, commissionata dal Centro per il Libro e la Lettura, è piuttosto dettagliata. Innanzitutto, per la prima volta, si distingue fra acquirenti e lettori. Fra il 2011 e il 2013 sono diminuiti però sia i lettori, dal 49 al 43%, sia gli acquirenti, dal 44 al 37%. Nel 2013, dunque, quasi 4 persone su 10 hanno acquistato almeno un libro, con una spesa media annua di 25 euro, per un totale di 112 milioni milioni di copie vendute. La metà dei libri acquistati è al di sotto dei 10 euro. Solo il 10% compra libri che costano dai 16 euro in su. I libri allora costano troppo? Gian Arturo Ferrari, presidente del Centro per il Libro e la Lettura. I libri non costano né troppo né troppo poco. Il punto dell'Italia è una politica di diffusione dell'abitudine a leggere libri capillare e radicale. Se l'avessimo sostenuto nei tempi passati avrebbe avuto un costo più sopportabile di quello che avrebbe oggi, ma tuttavia prima o poi bisognerà cominciare e da lì bisognerà passare. Se non ci fossero i lettori forti, editori e librerie fallirebbero. Sono loro, il 4% della popolazione, che da soli hanno acquistato il 36% delle copie vendute l'anno scorso. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gianandrea Gagliani, direttore di analisi di difesa, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori, ciao. Le leggo questa appena battuta. Il capo della missione dell'Ucraina presso le Nazioni Unite a Ginevra ha detto alla stampa di avere indicazioni che la Russia sia pronta a lanciare un intervento su larga scala a est e sud del paese. Le sembra credibile o è un allarme lanciato dalle autorità di Kiev in una fase naturalmente di tensione? Ma di sicuro c'è, Kiev ha tutto l'interesse ad lanciare, a far montare un allarme per un attacco russo nelle province orientali. In Mosca, ricordiamolo, nei giorni scorsi Putin stesso lo ha precisato, ha detto di non avere interesse e non volere iniziare operazioni militari nelle province orientali dell'Ucraina dopo l'annessione della Crimea. Da un lato gli ucraini hanno già chiesto e ottenuto non solo aiuti dall'Unione Europea ma anche un supporto dalla NATO, per adesso pare limitato a razioni da combattimento, insomma a razioni K per i suoi soldati e un po' di carburante dalla Polonia, però si stanno rafforzando le truppe della NATO ai confini occidentali dell'Ucraina. Il timore che i russi possano intervenire secondo me non è fondato. Pensare a un'invasione dell'Ucraina con i carri armati, il rischio qual è? Che se in queste province orientali la sicurezza della popolazione russa o filorussa non venisse garantita dal governo ucraino, e questo è un rischio concreto, allora la Russia potrebbe avere l'opportunità e forse anche il dovere, nella visione strategica che ha Putin, intervenire per tutelare i russi di queste regioni. Voglio capire questo, abbiamo un minuto e mezzo circa. Il rischio di un'escalation vera e propria, un'escalation militare vera e propria, quanto è concreto e quanto sarebbe concreto nel caso che la Russia si sentisse in dovere di intervenire in quelle aree dell'Ucraina nella quale i russofoni non fossero tutelati? Io credo che il rischio serio sia quello di una guerra civile, qualcosa di simile a quello che accadde nei Balcani anni fa tra ucraini di diversa provenienza, diciamo così, su scala però molto più grande dei Balcani. E il rischio di un'escalation è determinato dalla percezione probabilmente che ci può essere in Russia che la NATO in realtà è pronta a mandare aeroplani, a mandare tecnologia, ma che nessuno in Europa e anche forse negli Stati Uniti è disposto a morire per Kiev, vogliamo dirla così, e quindi se c'è la percezione che la NATO non ha poi, oltre a fare il polverone, non è poi disposta a mettersi in gioco, a scendere in campo con proprie forze militari per fronteggiare i russi, beh, quello potrebbe essere un vuoto di deterrenza sul quale Putin potrebbe giocare. In fondo sulla Crimea ha fatto qualcosa di simile. Alla fine, Gagliani, in 20 secondi, l'ha vinta Putin? Beh, per ora sì, ma però Putin ha perso. Ha vinto la battaglia della Crimea, ma ha perso la battaglia dell'Ucraina. Questa operazione con cui l'Europa, gli Stati Uniti, alcuni paesi occidentali hanno sottratto l'Ucraina con un'azione di piazza, poi vedremo un giorno forse quanto rappresentativa della popolazione ucraina, ha sottratto l'Ucraina dall'area di influenza politica, economica, strategica russa, è un'operazione che è una sconfitta per Mosca. In questa sconfitta Putin ha fatto un punto importante salvaguardando la Crimea e le sue basi militari che sono utilissime per il supporto che la Russia offre alla Siria, guarda caso. Grazie a Gianandrea Gagliani, direttore di analisi difesa, editorialista del Sole 24 Ore. Prima della viabilità, un'ultima notizia, appena battuta dalle agenzie, il governo ha avviato la desecretazione dei documenti che riguardano la morte di Ilaria Alpi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Come dicevamo, il governo ha avviato la desecretazione dei documenti che riguardano il caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Lo ha annunciato il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Sesa Amici. Si apre questo pomeriggio il Consiglio europeo e Renzi si prepara a chiedere che i fondi strutturali escano dal calcolo del patto di stabilità. C'è stato forse un primo ritrovamento per le parti dell'aereo scomparso. Le immagini satellitari hanno rivelato due oggetti al largo delle coste australiane. Queste le notizie principali. È il momento di America 24 e di Mario Platero. America, America, America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Labor market conditions have continued to improve. Janet Yellen, il nuovo governatore della Federal Reserve, alla sua prima riunione del Federal Open Market Committee, il comitato monetario della Federal Reserve, ha chiuso le riunioni ieri con un comunicato che ha confermato il taglio di altri 10 miliardi di dollari dalle operazioni di quantitative easing. Siamo scesi a quota 55 miliardi dagli 85 miliardi di interventi sul mercato da cui si era partiti. Era scontato, eppure la borsa ha reagito prima con prudenza, poi con un po' di preoccupazione. Perché? Beh, perché questa prudenza del mercato non dipende solo dalla conferma della linea Bernanke-Yellen, e cioè dal fatto che si continuerà lungo la linea che vuole una diminuzione del quantitative easing, quindi di questi interventi sul mercato ogni 6 settimane a un ritmo di 10 miliardi alla volta, ma per il passaggio, secondo me, del punto di riferimento per la gestione della politica monetaria dalle componenti macroeconomico o economiche in genere a quelle finanziarie e dal timore, ecco questo è un punto centrale, dal timore che da qui a breve, anche per l'escalation della crisi ucraina, la borsa potrebbe risentirne con una correzione. Everything that I've done has been designed to, number one, stabilize the economy, get it growing again, start producing jobs again. Allora partiamo intanto dai segnali rassicuranti. Avete sentito il presidente Obama che rivendica il miglioramento dell'economia americana, eppure gli americani, come dire, ancora non si sentono completamente a loro agio, tant'è vero che il suo indice di gradimento è precipitato in uno degli ultimi sondaggi al 41%, il livello minimo della sua presidenza. E questo è strano perché in realtà sul piano economico interno, sulla carta, le cose in America vanno bene. Il tasso di disoccupazione è calato ulteriormente in febbraio, abbiamo registrato anche la creazione di nuovi posti di lavoro, diciamo su un ritmo molto soddisfacente, al punto che la Fed ieri ha dovuto stralciare formalmente, perché diciamo sul piano informale lo aveva già annunciato, ma stralciato formalmente dal comunicato, il riferimento di un tasso di disoccupazione al 6,5% come soglia che avrebbe potuto indurre un aumento dei tassi di interesse a breve. Dunque in sostanza non cambierà nulla, l'economia americana va bene, il tasso di disoccupazione potrà andare ben al di là di quello che la Fed riteneva essere un livello di piena occupazione, potrà anche scendere al 6%, al 5-8%, a questo punto la componente è temporale, i tassi a breve resteranno bassi fino alla fine del 2015, ricordiamocelo questo, perché una cosa è l'intervento per il quantitative easing, sono interventi straordinari, una cosa è la gestione della politica monetaria dei tassi di interesse che resteranno, come dicevo, vicini allo zero. Ecco, se il problema non è economico, la borsa presenta degli elementi di fragilità. Avete sentito Ben Bernanke, era il suo discorso di addio alla Brookings Institution, e ammise che c'era solo un elemento di vera preoccupazione nell'equazione della Fed, non l'inflazione, non perdite su titoli acquistati appunto con le operazioni di quantitative easing, ma una possibile riduzione di asset prices. Ecco, questo aveva detto Bernanke, una riduzione cioè dei prezzi immobiliari oppure di quelli azionari. Bernanke non la prevedeva, adesso dice, però saremo vigili. Ecco, questo era stato l'unico elemento già alcune settimane fa. Troppe voci sul mercato, troppa agitazione, troppe instabilità all'estero, sia economiche che politiche. A questo punto, ecco, potrebbero creare quella che nel mercato in gergo si dice un perfect storm e portare magari a una correzione anche forte delle borse mondiali. Sul piano economico, per esempio, la Cina non sta crescendo ai ritmi attesi, stiamo sopra il 7%, ma tutto indica un rallentamento. Che succederà se si va al di sotto del 7%? Beh, ci saranno dei problemi, perché l'economia europea, che si sta riprendendo, punta anche sul traino cinese, l'economia americana è uguale, quindi ecco che se il locomotore cinese dovesse perdere forza, le conseguenze per l'economia americana ci saranno, e come, e la borsa non potrà non scontarle. A questo punto aggiungiamo la crisi ucraina, e la questione non è solo politica e diplomatica, perché c'è un'importante componente economica. Le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti, dal G7, lasceranno il segno a un certo punto su Mosca. La Russia poi funziona soprattutto grazie alle vendite di energia. Se i corridoi energetici dovessero subire delle chiusure anche temporanee, la reazione dei mercati sarebbe angosciata. Già la settimana scorsa il Dow Jones aveva perso il 2% per l'intera settimana dopo il piccolo peggioramento della crisi ucraina. Ma ieri, dopo che la Fed toglie liquidità nel momento in cui la tensione sale, soprattutto dopo le notizie dell'arresto di un ammiraglio ucraino da parte dei russi e la presa della base navale ucraina di Sebastopoli, il mercato ha ripreso a scendere. E dunque dallo 0,2% prudenziale in reazione al comunicato della Fed siamo andati allo 0,3, 0,4, 0,5 e poi l'accelerazione meno 1%, meno 162 punti, ci si è avvicinati a quota 16.120, poi una leggera ripresa, insomma alla fine abbiamo chiuso con una perdita dello 0,7%. Una conferma da una parte di questa fragilità, quindi attenzione a quel che farà il mercato, ma anche un messaggio indiretto: saremo vigili, ha detto Bernanke, sappiamo che la Yen la pensa come lui, saremo vigili vuol dire che, se le cose dovessero peggiorare improvvisamente, la Fed tornerà a iniettare liquidità. Devo dire, loro hanno molta più flessibilità operativa di quella che possiamo permetterci noi in Europa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Siamo in atmosfera di blues, no? Tempi blu, come si dice in America. I am having a blue day. E dunque lasciate che vi proponga del grande Roy Orbison, una canzone meravigliosa, nostalgica, sentimentale e un po' preoccupata. California Blue. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain from you, California blue, California blue, dreaming all alone, nothing else to do, California blue, every day I pray. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno, un ringraziamento a Filippo Reggi in regia, Anita Riotti in redazione in assistenza, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Noi ci risentiamo domani con la trasmissione alle 13 naturalmente e tra un attimo con GR24.